Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. Sette minuti dopo le 11, buona domenica da Federico Taddia, siamo in diretta con i Padri Eterni, un'ora intera insieme per parlare di padri, per parlare ai padri in questa Milano che si è svegliata insomma in un modo, potete immaginarlo, no? Strano e confuso, però credo che insomma sia anche il momento della consapevolezza e delle scelte forti, delle scelte che ognuno di noi deve e può fare, e in quanto padre dobbiamo essere anche testimoni e esempio. Testimoni ed esempio, infatti oggi sono in studio da solo perché abbiamo tenuto fuori dalla regione Lombardia, io già c'ero, l'amico e collega Matteo Bussola, che è però in collegamento da casa sua. Ciao Matteo, buona domenica. Ciao Fede, buona domenica a tutti. Insomma, grazie poi anche alle tecnologie di Radio 24, sembri qui al mio fianco, quindi insomma è come averti qua. Matteo, allora ricordiamo radio24.it, il nostro sito, da lì potrete poi riascoltare la puntata padreterni@radio24.it. Se volete scriverci 349-238-6666 per i vostri messaggi, sms, whatsapp, se volete condividere con noi quello che da padri state vivendo in queste ore, in queste giornate. Matteo, è un giorno particolare però, perché per fortuna non c'è solo il coronavirus. Ma infatti, guarda Fede, anche se la nostra è una trasmissione dedicata ai padri, direi proprio perché è una trasmissione dedicata ai padri, forse è il caso che proprio oggi, no, facciamo gli auguri a tutte le donne, a tutte le madri, per la giornata internazionale dei diritti delle donne che cade oggi. Perché alla fine, pensandoci anche in questo caso, no, in questa emergenza che ci ha colto tutti, sono prevalentemente le donne e le madri a stare con i figli in questi giorni di scuole chiuse, sono prevalentemente loro a farsi carico della spesa, dell'organizzazione domestica. Quindi insomma cerchiamo anche noi padri, nei limiti del possibile, di star loro più vicino e magari, pur con tutte le precauzioni del caso, regaliamo oggi un rametto di mimosa che male non fa. Quindi questa puntata è dedicata anche alle mamme, parleremo tanti di padri queste ore, in questi giorni, in queste settimane che ci aspettano, come essere presenti in maniera significativa, che poi insomma vuol dire parlare di genitori. Oh signore dell'universo, ascolta questo figlio disperso che ha perso il filo, che non sa dov'è e che non sa neanche più parlare con te. Ho un Cristo che pende sopra il mio cuscino e un Buddha sereno sopra il comodino. Conosco a memoria il cantico delle creature, grandissimo rispetto per le mille sure del Corano. C'ho pure un talismano che me l'ha regalato mio fratello africano. E io lo so che tu da qualche parte ti riveli, che non sei solamente chiuso dietro ai cieli e nelle rappresentazioni umane di te. A volte io ti vedo in tutto quello che c'è, giro per il mondo tra i miei alti e bassi, come pollicino lascio indietro dei sassi sui miei passi, per non dimenticare la strada che ho percorso fino ad arrivare qua. E ora dove si va? Adesso si riparte per un'altra città. Andare a casa, a casa dov'è? La casa, le scuole chiuse, l'invito a non uscire di casa, tutti i disagi che tutto ciò si porta dietro, lo sappiamo. Poi c'è anche un'altra faccia, no? Che è quella del trovarsi in casa con del tempo liberato. Per qualcuno è tempo da occupare, per altri può essere una opportunità, e comunque un tempo forzato, tra virgolette, no? Di convivenza nuova, tipica, anche con i nostri figli. È una situazione che in parte insomma tu vivi quotidianamente, no Matteo? Che è quella comunque del lavorare in casa, dell'essere lì, quasi H24 insieme alle tue figlie. Però per tanti è veramente per tanti papà anche una situazione assolutamente nuova. Tanto chi da te, qual è un primo consiglio che daresti a questi ai papà? Ma guarda, insomma, persone come tu dicevi, no, che fanno professioni un po' particolari come le nostre, vivono questa condizione più spesso, più frequentemente, anche nelle situazioni non di emergenza. Io posso dire che ho passato molto tempo con le mie figlie in questi giorni a cucinare insieme con loro. Può sembrare una piccola cosa, ma diventa anche un modo per educare i figli, che sono abituati a trovare sempre tutto pronto, insomma. E volevamo aprire questa puntata non tanto dandovi suggerimenti sul cosa fare, ma il come fare, ovvero come queste ore, queste giornate, questi momenti nuovi possono diventare anche una opportunità relazionale? E quali sono anche magari i rischi, no? Le trappole in cui non cadere? E per questo abbiamo invitato un esperto in materia, è Luigi Ballerini, psicologo, psicoterapeuta e scrittore, che abbiamo il piacere di avere qua con noi. Ciao Luigi, buona domenica. Ciao, buona domenica a voi. E anche papà, perché hai quattro figli, quattro sì, quindi sì. Insomma, sai di cosa stiamo parlando. Luigi, sembra quasi offensivo dire che questo momento può essere anche una opportunità. È un'opportunità, può esserlo? Ma certo che no, guarda, non è offensivo. Qualcuno appunto magari può sembrarlo un po' strano, dicendo caspita, una situazione, no, in alcune case magari anche di dolore, di dispiacere, per altro anche solamente di fastidio per una limitazione che è necessaria ma che in qualche modo ci sta stretta. Ma è anche un'opportunità perché, lo dicevate prima, per molti non è così frequente avere del tempo condiviso e peraltro libero, perché poi è un tempo, come hai detto tu bene, liberato, no? E, insomma, dobbiamo usarlo anche bene questo tempo. No, tra l'altro un tempo che si libera e che non ha le vie di fuga ordinarie. Non c'è il teatro, non c'è il cinema, non c'è le vie di fuga ordinarie. Mi fai venire in mente, posso un aneddoto personale, Federico? Certo. Allora, per me è stato davvero importante per capirlo come padre. Mi trovavo ad Helsinki per un congresso, mio figlio giovanissimo, adolescente, mi ha raggiunto. Helsinki era piena, c'era tantissima gente, pochi ristoranti, io incautamente non ho prenotato. Abbiamo trovato un buco all'ultimo momento in un ristorante, ci siamo infilati, ci siamo seduti e la prima cosa che ci ha detto la cameriera era: sedetevi pure, ma non vi serviamo prima di un'ora. E io ricordo di aver letto nello sguardo di mio figlio un po' di panico, non solo per il fatto che avevamo fame, no? Ma probabilmente lui ha pensato la stessa cosa che ho pensato io, ossia: e adesso che cosa ci diciamo per un'ora, no? Cioè, mi sono accorto che forse per la prima volta avevamo una convivenza forzata, anche solo di un'ora, senza vie di fuga, no? Ed è stato interessante perché poi abbiamo dovuto come trovare un terreno comune, no? Lui ha provato col calcio, io l'ultimo giocatore che ricordavo era Rivera, per cui era abbastanza fuori gioco. Io ho provato con altri miei terreni più familiari che però non attecchivano. Per fortuna sul menù c'era una carne d'orso, abbiamo iniziato a immaginare da dove sarebbe arrivato quest'orso ed è partita. Ed è stata un'occasione tale che poi adesso uomo, lui, a distanza di tanti anni, ogni tanto ci diciamo: oh, ma ci ricordiamo quella bellissima occasione, quel viaggio che è stato ad Helsinki. Ecco, adesso molti padri hanno l'occasione di avere la loro Helsinki, no? Che magari non è un'ora, ma può essere anche più tempo. Non dobbiamo sprecarle, non dobbiamo cadere in certe trappole in cui, ahimè, talora cadiamo. Luigi, ti chiedo un minuto di pazienza, ci fermiamo alle informazioni per chi sta viaggiando, poi torniamo immediatamente da te. Padri Eterni. Eccoci qua, i Padri Eterni, ancora con Luigi Ballerini. Stiamo parlando appunto di come questo tempo liberato possa diventare un'occasione per nuove relazioni. In collegamento anche Matteo Bussola. Matteo, hai una domanda per Luigi? Ma più che una domanda ho una considerazione, nel senso che io concordo davvero tanto con quello che ha detto Luigi, perché noi, se pensiamo, siamo sempre coinvolti in queste vite che sono piene di cose urgenti, sempre, e dimentichiamo le cose importanti. Porto anche io un piccolo aneddoto personale, perché trovo che queste immagini a volte possono essere più utili di tanti discorsi. La settimana scorsa, quando c'era già, no, questo discorso dei figli a casa, mia figlia è venuta in cucina, mia figlia maggiore, e a un certo punto mi ha spiazzato perché mi ha chiesto: papà, come stai? Che è una domanda che i genitori di solito non sono tanto abituati a sentirsi fare. Ecco, e noi stessi con i figli, la cosa che nei periodi di normalità, la domanda che facciamo più di frequente magari è: come è andata a scuola? Ecco, forse questa può essere un'occasione per ricominciare invece a farci le domande importanti. Come stai? Sei felice? Cose di questo genere. Chiedere come non è andata a scuola, perché diventerà questa la domanda, vero Luigi? Sì, infatti io considero un test per un genitore, no? E che cosa chiedi quando stai chiedendo come è andata oggi? In molti casi coincide con che voto hai preso, no? Che è una riduzione pazzesca di quella che è la vita di un giovane, no? La sua vita di relazioni, di rapporti, di desideri, di paure, di timori, per cui è davvero una riduzione che a volte facciamo. Una riduzione perché non guardiamo, non ascoltiamo, ecco, che si liberi del tempo, no? Che può essere il tempo dell'ascolto soprattutto, ma bisogna sapere ascoltare però. Eh sì, bisogna saper ascoltare, e perché boh, sto pensando anche a chi ha figli adolescenti, che forse ti accorgi anche in queste ore, in questi giorni, di avere, non dico uno sconosciuto, no? Però ti accorgi che c'è un mondo lì davanti, che se hai più tempo per ascoltare e anche per farti ascoltare, può anche metterti in crisi però, no? Questo strano incontro, o no? Ma guarda, può metterti in crisi. Quello che ti può salvare da questa crisi, che può essere anche buona, perché vuol dire che affronti forse per la prima volta una questione interessante, ossia che ho davanti, no? Può essere davvero ciò che rompe questa crisi e la rende fertile. Seconda, io credo che sia davvero il desiderio di conoscere chi è davanti, al di là del presupposto, al di là del già saputo, no? Perché quando incontro genitori di adolescenti, a volte mi dicono, quando chiedo ma che interessi ha, la risposta è niente, non gli interessa niente, e io gli faccio sempre una sfida, dico ma siamo davvero sicuri che non gli interessa niente, o non ce lo dicono che cosa gli interessa, o hanno paura di dirci cosa gli interessa perché poi noi lo riteniamo magari futile o addirittura dannoso, o in qualche modo possa non piacerci, per cui temo la nostra critica. Allora io credo che mettersi in una posizione di sincero ascolto, che è l'essere seriamente interessato a cosa l'altro ha da dirmi, già questa è una bella posizione, perché vuol dire che considero l'altro titolato a dirmi qualche cosa, titolato a pensare qualcosa su di sé, no? E allora, di là una delle trappole, noi dicevamo prima, è quella del già saputo, del presupposto, io so già com'è, no? Invece dare la possibilità del farsi conoscere davvero. Certo che deve essere un ascolto che ascolta, non che interviene subito, che ha l'esigenza di correggere, che ha l'esigenza di puntualizzare qual è la cosa corretta. No? A volte noi vogliamo i ragazzi come se fossero dei quarantenni, a volte cinici, che sanno già tutto della vita. No? Certo. E invece è interessante, no? il loro punto di vista. E poi mi è piaciuto molto quello che hai detto, Federico, perché è proprio anche l'occasione di farci conoscere. E guarda, non sai quanti ragazzi incontro che non conoscono che lavoro fa il padre, no? Cioè, cosa fa il papà, è un ingegnere? Così, beh, ma che ingegnere è? Ingegnere è un titolo, non è un lavoro, no? Cioè, c'è un caschetto che va in cantiere, ha una valigia con cui va in giro in macchina, sta dietro una scrivania, disegna su un tavolo, no? Ma non lo so. Come sono detto, quest'uomo forse, no, si è fatto anche, no, vanto di non portare il lavoro a casa, ma in realtà ai nostri ragazzi interessa tantissimo quello che facciamo fuori casa, eh? Fin da piccoli gli interessa, ma anche quando sono più grandi. Allora anche l'occasione di farci conoscere un po' di più, di raccontarci, di dire, no? Perché quando vi vedete, mio figlio non ci parla più, io poi controbatto e dico, ma noi che cosa diciamo loro? No, che cosa raccontiamo di noi? Raccontiamo pochissimo. Allora, questo può essere davvero un momento fecondo in cui ascoltiamo e raccontiamo, e alla fine ci scopriremo anche un po' più simili, ossia legati tutti dalla stessa questione, che è come faccio, o di minima, come faccio a portare a casa la giornata, o un po' più, ossia come faccio a essere felice oggi. No? È la stessa questione individuale che lega me e il ragazzo di 15 anni o il bambino di 6. Ringraziamo Luigi Ballerini, psicologo, psicoterapeuta e scrittore, per essere stato con noi. Ci sentiremo nelle prossime puntate, perché so che sei in uscita con un nuovo romanzo per ragazzi. Io come sempre colgo l'occasione invece per consigliarvi un vecchio romanzo di Luigi, che è Io sono zero, vincitore del premio Bancarellino 2016, perché credo sia una delle cose più belle scritte negli ultimi anni, e lo consiglio davvero per i vostri figli. Ciao Luigi, a prestissimo. Grazie, a presto, ciao. bagnale le mani, saponale le mani, sfrega il palmo sopra il dorso, poi il palmo contro il palmo, intrecciale le dita e frega, frega, frega, friziona avanti e indietro le dita e anche i polsi, risciacqua bene bene, poi asciuga, asciuga, ah, segui passo dopo passo, è una danza, una movenza, segui il ritmo, la cadenza, segui il tempo, segui l'onda, muovi i palmi a seconda, i secondi in quarantena stan passando, stan finendo, è il virus misterioso che si leva col sabon, col sabon. Lo diceva già Pilato che le mani van lavate, lo diceva anche di questa è la banda Osiris che a modo loro hanno preso quelle che sono le istruzioni per lavarsi correttamente le mani e le hanno messe in musica, perché anche l'ironia può aiutare per comunicare certi messaggi. Matteo, si torna a parlare di scuola. Tu stai facendo i compiti, stai facendo il maestro anche con le tue figlie. Guarda Fede, ricollegandoci anche a quello che dicevamo prima con Luigi, io credo che mai come in questa occasione abbiamo la possibilità di renderci conto di che vite difficili fanno i nostri figli, adolescenti o meno che siano, perché noi siamo travolti letteralmente dai compiti che arrivano attraverso le chat scolastiche, che arrivano attraverso le mail delle maestre, e quindi chiaramente essendo tutti qui insieme in questo tempo, tutto attaccato a casa dal lavoro, insomma c'è molta più possibilità di rendersi conto, e a volte ci si scopre anche, bisogna dire, in difficoltà, insomma, non è sempre tutto semplice, non ti ricordi le divisioni in colonna, non ti ricordi certi meccanismi, quindi è tutto utile per rispolverare anche certe conoscenze. Ricordiamo che il decreto della notte appunto dice che le scuole rimarranno chiuse in Lombardia e nelle 14 province fino al 3 aprile, quindi è stata prorogata la chiusura nel resto d'Italia fino al 15 marzo. E ragazzi e ragazze a casa da scuola, tantissimi istituti si stanno appunto attivando per lezioni a distanza, per le scuole online, per l'organizzazione tramite chat, giri di mail, telefonate per far arrivare i compiti. I più piccolini, bambine e bambine, che sono anche un po' confuse, non abituati anche a questo tipo di insegnamento, o forse sì, forse non siamo noi genitori abituati al fatto che i nostri figli possano fare i compiti su una mail o su una classe virtuale. Di tutto questo, per capire come poter essere utili, come sempre noi padri in questa situazione, abbiamo invitato un insegnante, è una insegnante di scuola primaria, è consulente familiare, anche scrittrice, l'abbiamo già avuta ospite qui ai Padri Eterni con il suo libro Libera i talenti del tuo bambino di Sperling and Kupfer. Diamo il benvenuto a Francesca Valla. Ciao Francesca, buona domenica. Ciao Fede, ciao Matteo, ciao ragazzi. Ciao, grazie Francesca. L'invito. Allora, tu sei nel doppio ruolo, nel triplice ruolo, perché sei consulente familiare, ma sei insegnante e sei anche madre. Sì. Esatto, quindi come possiamo organizzarci, come noi padri possiamo essere utili in questo momento dove veramente c'è confusione, dove sarebbero da abolire le chat di classe che sembrano dei piccoli convegni di pedagogisti, in verità sono anche utili per far arrivare i compiti, però è questo il modo per reagire alla chiusura delle scuole, bombardare i nostri figli di compiti? Allora, diciamo che la tecnologia in questo frangente diventa un plus, perché ci permette di metterci in collegamento tra noi insegnanti ma anche tra noi genitori, quindi la vedo sicuramente un aspetto estremamente positivo. Sulla mole del lavoro, ovviamente da insegnante dico sempre che forse in un momento come questo abbiamo bisogno davvero, oltre a salvaguardare la salute dei nostri bambini, salvaguardare anche la loro tranquillità emotiva, quindi carichiamoli più che altro di compiti esperienziali anziché di compiti didattici. È evidente e importante, tanto è vero che prima Matteo parlava del fatto che in questo periodo sta cucinando, no, con i suoi figli, e in quel momento lì, per esempio, cucinando con i propri figli ci sono gli ingredienti più importanti per imparare la matematica, per esempio, per imparare la storia, quello che viene prima, quello che viene dopo. Attraverso una passeggiata osserviamo i paesaggi, facciamo scienza osservando gli alberi, osservando gli animali che incontriamo, quindi diciamo che ci sono anche altre modalità per fare i compiti, però anche da insegnante te lo dico che anch'io ho dato delle suggestioni didattiche per i nostri bambini, perché in questo momento, in questa quotidianità che sta stravolta, i nostri bambini hanno bisogno anche di punti di riferimento, di ciò che facevano prima, di poterlo continuare, quindi di mettere un po' ordine a quella che è una quotidianità davvero tanto diversa da quella di prima. Quindi dando delle routine, cerco di essere, Matteo e Fede, abbastanza concreta, quindi cerchiamo proprio di pianificare il lavoro. Con i nostri figli prendiamo un foglio a quattro, scriviamo i giorni da lunedì alla domenica e pianifichiamo le attività. Alla mattina, per esempio, possiamo dare spazio quindi al fare i compiti, e il pomeriggio invece le attività di svago, le attività dei laboratori che possiamo fare con i nostri bambini se siamo a casa con loro e possiamo vivere questo momento insieme a loro. Quindi cerchiamo di portare un po' di positività nella nuova quotidianità dei nostri figli. E prima io mi sono emozionata tantissimo quando Matteo ha raccontato che sua figlia gli ha detto: ma tu papà come stai? Ecco, questa frase io credo che sia davvero esemplificativa, cioè racconti come i figli hanno delle risorse incredibili e in questo momento ci stanno insegnando ad ascoltare le nostre emozioni. E davvero diventa un'opportunità per noi genitori. È un momento davvero molto faticoso e delicato e sicuramente mette a dura prova tutti noi, piccoli e grandi, ma noi abbiamo bisogno davvero di prenderci cura delle nostre emozioni, ma soprattutto delle emozioni dei nostri bambini. Matteo. Guarda, Fede, devo dire che infatti è paradossale, no? Perché il nostro compito di genitori è anche quello di proteggere i nostri figli, sì. Ma la verità è che loro sono molto più adattabili di noi, quindi in realtà forse dovremmo ascoltarli di più, perché forse potremmo trovare delle risposte. Ma c'è una cosa che volevo chiedere a Francesca, no? Cioè in questa pianificazione che tu suggerivi e che trovo assolutamente pertinente come consiglio, possiamo prevedere di lasciare anche un pochino di spazio alla santissima noia, sì, cioè insegnare i nostri figli a coltivarla un pochino, no? Guarda, anche riconoscere, allora, no, dicevo, anche riconoscere questo sacrosanto diritto degli adolescenti a stare stravaccati sul divano una mezz'oretta. È quel momento lì della noia, del momento vuoto, dove non fai niente, dove il bambino è anche angosciato, perché il bambino rispetto alla noia viene subito a chiederti aiuto, viene subito a chiederti che cosa posso fare adesso. E noi dobbiamo essere molto capaci di identificare quel momento lì come un momento altamente costruttivo. Noi sappiamo che nei momenti di noia, nei momenti di ozio, arrivano le scoperte più grandi. È il momento in cui noi creiamo, infatti parliamo spesso e volentieri proprio di noia creativa, di come aspetto e momento essenziale nella vita dei nostri figli. Abbiamo sempre una vita nella nostra quotidianità che ci manca tanto, e io lo dichiaro da mamma, da insegnante, però nella nostra quotidianità abbiamo sempre riempito troppo le vite dei nostri figli. Noi abbiamo bisogno di fare questo calendario per mettere un po' ordine, per dare routine, per dare certezza. Sappiamo che i bambini hanno bisogno di punti fermi, perché attraverso il punto fermo il bambino sa esattamente, trova la sua fermezza, trova la sua stabilità. Ma abbiamo bisogno anche di spazi vuoti che vengano riempiti. Pensate che l'altro giorno, io ho una passione autentica per la lettura e mia figlia per l'ascolto delle storie, quindi ci siamo trovate alla fine. E noi ci mettiamo lì e leggiamo. Poi a un certo punto le ho detto: amore, adesso vai serena, ti lascio, fai quello che vuoi. Insomma, è sparita nella sua stanzetta per 2 ore. Ho detto: boh, speriamo bene, dopo 2 ore, busto. Non erano proprio 2 ore, però un'oretta, hai fatto: amore, tutto bene, sì. Insomma, ha creato una cosa straordinaria, ha creato un letto baldacchino per i nostri topini con tutto il materiale di riciclo. Ecco, quindi lasciare anche i bambini questi spazi vuoti dove loro possono immaginare e costruire. Il fatto di aver costruito un letto che è il letto dei nostri topini, che li mette tutti in sicurezza, per me ha un valore incredibile. E poi, come sempre dico, quando noi facciamo i compiti, lo do come suggerimento e lo do anche a me come mamma, che faccio l'insegnante ma faccio anche la mamma, è quello di non sostituirci mai i bambini quando fanno i compiti. Se possiamo dare una mano magari all'inizio, da dove partire, partiamo da matematica, italiana, con la scrivania che sia un po' in ordine, non come la scrivania che abbiamo noi questa mattina, che è totalmente in disordine, infatti cercheremo stamattina di rimettere ordine. Però è importante dare ai bambini un inizio, all'inizio magari una piccola presenza, soprattutto per i bambini piccolini, magari mi immagino più di prima e di seconda elementare, dove la presenza del genitore magari dà loro certezza, ma dopodiché lasciamoli anche andare. Una bella cosa che ha sempre insegnato Maria Montessori è quella di aiutare i bambini a fare da soli. Quindi, se noi ci accorgiamo, ad esempio, che ci sono degli errori, capiterà, io li vedo, mia figlia, io cerco di non intervenire. Se mi rendo conto, però, che quell'errore è ripetuto in maniera sistematica, allora le dico, arrivo col ditino, le punto esattamente la zona, e dico: attenzione, qua vedo un errore. e poi chiedo a lei di autocorreggersi. Sì. Perché ovviamente in quel caso l'autocorrezione le permette anche di migliorare poi tutte le altre esercizi. Se sbaglia uno e ne sbaglia tutte, è chiaro che poi non diventa più efficace funzionale l'attività. Quindi la nostra presenza deve essere una guida, deve essere da guida, ma non dobbiamo sostituirci. Questo è importante ricordarlo, soprattutto in questi giorni dove insomma anche tanti genitori, tante madri, tanti padri sono anche un po' in panico, no? da insegnamento. Ma, sì, perché... ma io capisco, Fede, perché è un momento davvero molto complicato per tutti noi e stiamo facendo più cose contemporaneamente, oltre a gestire tutta la parte emotiva che non è indifferente. Però una cosa interessante, per esempio, l'altro giorno abbiamo deciso di fare una pausa. All'interno del nostro calendario c'è la pausa caffè, dove ovviamente prima la pausa caffè io la facevo con i miei colleghi, mio marito anche con i suoi. Adesso la pausa caffè la facciamo in famiglia, no? Tra di noi, e diventa un momento anche per, come dire, prenderci i nostri momenti di svago durante questa giornata che è fatta anche di altre cose, sistemare la casa, organizzare i pranzi. Ecco, per esempio in questo momento penso che coinvolgere i figli anche nelle attività domestiche diventa un'esperienza davvero come dicevo anche prima, per loro. Francesca, grazie davvero, Francesca Valla, per essere stata con noi, grazie, insomma, Fede, con i consigli, grazie, le dritte, insomma, che sono anche un incoraggiamento, no, tutti insieme per potercela fare. Ciao, buona domenica, e ci fermiamo nel momento della pubblicità e del meteo, poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. Passa, passa a me, passa a me, passa a me. Passo, passo a te, passo a te, passo a te. Passa, passa a me, passa a me, passa a me. Passami il microfono e io lo passo a te. Passami il microfono in modo che possa dirlo, perché in questo mondo non conta solo il contante. Perché io non posso più stare zitto e tranquillo, perché un rapper non è la stessa cosa di un cantante. Questo microfono è nostro, lo sto prendendo per mettere in pratica il diritto di espressione. Tolgo la parola solo a chi ci sta mentendo. Costruisco un nuovo mondo con le mie parole. Passa, passa a me come su un campo di calcio. Bomber del microfono, metto i concetti in rete. Sono quadri astratti le parole che io traccio, ma voglio che ispirino le azioni più concrete. Passami il microfono come un testimone in questa staffetta di pensieri e di perché. Nel mare in tempesta lo userò come un timone. Passami il microfono e io lo passo a te. Passa, passa. Ancora buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola, i Padri Eterni, ancora mezz'ora insieme in questa puntata che ovviamente stiamo dedicando a questo tempo forzatamente liberato, questo tempo che dobbiamo gestire, che dobbiamo impegnare, che dobbiamo occupare con i nostri figli. E insomma, ci immaginavamo anche modi nuovi, modi diversi, modi capaci anche di andare incontro a quelli che sono gli interessi dei ragazzi. Tu, Matteo, col rap come te la cavi? Guarda, so che può sembrare strano, ma con le mie bambine ci divertiamo spesso a inventare rime, a inventare canzoncine. Credo che sia un tempo utile e ben speso, perché poi aiuta a sviluppare, no, la possibilità di pensare in fretta, aiuta a sviluppare la fantasia. Quindi sono proprio curioso di sentire i consigli del nostro prossimo ospite. Il nostro ospite è Francesco Kento Carlo, è un rapper ed autore di un bellissimo manuale edito da Il Castoro. Il titolo è Te lo dico in rap, ed è proprio uno strumento pratico con tantissime indicazioni su come tirar fuori le emozioni. E mai come in questo momento credo sia importante tirar fuori la rabbia, la paura, la gioia, la speranza, il sogno, e lo si può fare con le rime giuste. Ciao Kento, grazie per essere qua con noi. Ciao, grazie a voi, un saluto a chi ci ascolta. Tutti possono diventare rapper? Beh, tutti possono esprimersi, tutti dovrebbero esprimersi, tutti possono provare a concentrarsi, a utilizzare meglio l'italiano, a giocare, a divertirsi. Non tutti possono diventare rapper, ma il rap sicuramente è per tutti. Abbiamo scelto il rap come attività da proporre padri e figli insieme, perché credo, insomma, è anche un qualcosa di intergenerazionale, no? È uno di quei ponti che possono essere in grado di unire grandi e piccoli. Dai consigli a noi genitori più che ai nostri figli, da dove possiamo iniziare per solleticarli a scrivere qualcosa in rap? Ma guarda, per esperienza la cosa più difficile è coinvolgere i genitori, non coinvolgere i ragazzi. E ai genitori il consiglio che do sicuramente è quello di divertirsi e provare a tornare ragazzi, provare insomma a riscoprire anche il gioco delle parole, il gioco delle sillabe, della rima. E poi per quanto riguarda i ragazzi, i consigli che do solitamente sono tre punti chiavi. Uno, la rima. Due, il ritmo. Tre, il concetto. Se ci sono questi tre punti si può costruire qualcosa di molto interessante. E il libro, ci sono tanti cenni su quella che è la storia della cultura hip hop, sulla storia del rap. Poi, insomma, la parte più pratica, sono queste pagine gialle che hai chiamato Officina Rap, dove veramente dai istruzioni molto precise anche sul come non tanto giocare con le rime, sì, quello è l'esercizio, però riuscire a comunicare, perché altrimenti il rap è solo un mero esercizio di stile, no? Assolutamente sì, cioè, appunto ti dicevo, la rima, il ritmo e il contenuto, più cose abbiamo da dire più ci possiamo divertire. Poi i ragazzi, come insomma sai benissimo, hanno tante cose da dire e semplicemente insomma facendoli focalizzare, dandogli metaforicamente un microfono in mano, possono venire fuori dei concetti molto importanti, oltre che molto interessanti e divertenti. Matteo? Ma pensavo, mentre Kento parlava, no, che la difficoltà che c'è, no, stava reppando anche Matteo in questo momento, c'è stato un piccolo disturbo sulla linea. Matteo, ci sei? È caduto, adesso lo recuperiamo. Intanto Kento, tu il primo consiglio che dai è quello di comunque ascoltare musica rap, cioè partire da lì, vero? Beh, assolutamente sì, come il consiglio che magari, che ne so, si dà a chi vuole cominciare a scrivere e leggere, io do assolutamente il consiglio di ascoltare musica rap, e dico allo stesso tempo che non è mai abbastanza presto per sviluppare un ascolto critico, per ragionare con la propria testa, per affrontare anche dei concetti magari problematici che possono venire fuori nelle canzoni rap. Ascoltare, ma ascoltare con le orecchie aperte, con la mente aperta, e appunto giudicare con la propria testa. Però partiamo proprio da qui, perché magari un padre, appunto un nostro coetaneo, prende un pezzo della sua generazione, no? Della sua infanzia, rap, lo propone al proprio figlio, e come va ascoltato? Da dove si parte? Dalle parole, dalla musica, dal ritmo? Ma sicuramente, chiaramente dipende dal pezzo, ma in generale io consiglierei di partire dalle parole, specialmente se partiamo appunto, come dici tu, da un pezzo magari di qualche anno fa, degli anni 90, della cosiddetta epoca d'oro del rap, c'è qualcosa di ancora molto bello e di ancora inesplorato per i ragazzi, no? Perché i ragazzi di oggi crescono immersi nell'hip hop e nel rap, come dire, fin da quando nascono, però probabilmente non sanno bene quello che c'era prima, quindi quella che per un genitore è una riscoperta, per un ragazzo sicuramente una scoperta per la prima volta. Entra nel cerchio, c'è tanto da imparare, da ascoltare, presta orecchio. La mia radio suona in questa zona da parecchio. Entra e poi non dirmi che non te l'avevo detto. Entra nel cerchio, nel cerchio, nel cerchio. C'è tanto da imparare, da ascoltare, presta orecchio. La mia radio suona in questa zona da parecchio. Entra e poi non dirmi che non te l'avevo detto. Entra nel cerchio, nel cerchio. Nel cerchio trovi rapper con le rime più selvagge, con le parole viaggi riempiendo foglie e pagine. Piccoli disegni si fa saranno giganteschi sopra i muri del quartiere, come chiese con gli affreschi. Il b-boy che balla, Kento, non parla, che... ma comunica. Che significato ha il cerchio per le ragazze e per i ragazzi? Beh, il cerchio è una delle cose più belle, secondo me, della cultura hip hop. Prima di tutto, in un cerchio, pensano a un cerchio, no, il girotondo. Quindi è un, diciamo, un ambiente dove tutti hanno la possibilità di esprimersi e dove non c'è il palco, dove c'è l'artista in alto e il pubblico in basso, è un ambiente sociale, di socialità ristretta, dove tutti sono allo stesso livello e dove ognuno si può guadagnare il rispetto, l'attenzione, il sorriso, gli applausi, semplicemente grazie alla sua tecnica, grazie alla sua abilità e grazie alle cose che ha da dire. Fai conto che quando io parlo del cerchio ai ragazzi, faccio sempre l'esempio di Re Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda, cioè il fatto che la tavola fosse rotonda serviva appunto perché nessuno fosse a capotavola, ma tutti i cavalieri fossero uguali. Certo. Matteo, ti abbiamo recuperato? Mi avete recuperato, eccoti. Però ho collegato al telefono, spero che mi sentiate bene. Sì. No, prima, quando è caduta la linea, stavo dicendo a Kento, no, che credo che una delle difficoltà maggiori dei genitori nell'essere coinvolti è che i genitori hanno l'ossessione del a cosa serve fare una cosa. Ecco, il rap è esattamente come la scrittura, no? Per esempio, non tutti diventeranno scrittori, quelli che hanno la passione per la scrittura, ma serve scrivere per mettersi a fuoco, per esprimere le nostre emozioni, come dicevate prima. Col rap è esattamente la stessa cosa, cioè è proprio bello il fatto di farlo, indipendentemente dall'obiettivo, credo. Sì, forse c'è anche qualcosa in più rispetto a quello che dici tu, nel senso che sicuramente imparare a concentrarsi, imparare a scrivere, imparare a esprimere le proprie opinioni è una cosa molto bella. Però se ci pensi, il rap per esempio ti può anche aprire la strada verso la conoscenza dell'inglese. Io non ho studiato per tantissimi anni l'inglese a scuola, l'inglese l'ho imparato con le canzoni rap. Oppure se chi ti fa avvicinare al rap è molto bravo, magari col concetto di metrica puoi avvicinarti alla poesia. Oppure ancora, magari per i più grandicelli, il rap è una delle chiavi più importanti per capire a livello sociale e culturale la società odierna. Quindi gli spunti secondo me ce ne sono. Certo, tutto questo in Te lo dico in rap, edito da Il Castoro, Francesco Kento Carlo, l'autore, è veramente un bellissimo strumento, anche perché poi, Kento, non dobbiamo aver paura noi padri di quello che i ragazzi riescono a comunicare e a comunicarci via rap, no? Perché poi c'è anche quel pregiudizio lì che dicano cose scomode. Ma guarda, io... non per piaggeria, leggevo qualche giorno fa un'intervista che hai fatto tu a un medico, se non ricordo male, che diceva, appunto parlando del virus, diceva dobbiamo raccontare tutto ai bambini, certo, usando le parole giuste, usando gli esempi giusti, però non dobbiamo ovviamente mai pensare che i bambini siano stupidi o non siano in grado di conoscere la realtà. Io penso che dare uno strumento e farlo utilizzare in maniera consapevole sia la cosa migliore che possiamo fare nei confronti dei più piccoli. E nel rap ne parlo ancora una volta, con le parole giuste, con gli esempi giusti, ma una delle domande legittime che mi sento fare più spesso dai ragazzi, dai genitori, dagli insegnanti, per esempio è: ok, ma perché nel rap ci sono dei contenuti sessisti, dei contenuti, come dire, denigratori nei confronti delle donne? Perché nel rap si parla in un certo modo di droga, di denaro, di certi atteggiamenti, diciamo, superficiali ed edonistici? E questi sono dei punti che... Esatto, il punto che hai raccontato in questo pronto intervento hip hop, che sono appunto domande scomode a cui dai risposte dirette, senza nasconderti, e mi sembra anche questo un valore in più di questo bel libro. Grazie Kento, ciao, buona domenica. Il traffico! Grazie a voi! Padri Eterni. Abbiamo aperto la puntata con Matteo, che ha ricordato appunto che oggi è la festa delle donne, l'8 marzo, insomma questa giornata che apparentemente, no, quest'anno è un po' sottotono perché il momento attuale e la cronaca si porta dietro tutt'altro. Invece pensavo sia fondamentale comunque ricordarla e farla a modo nostro, cioè mettendo al centro anche i padri. E per farlo abbiamo preso spunto da un convegno che era in programma, è stato annullato per ovvi motivi, martedì 10 marzo, promosso dal Comune di Lucca e dalla Commissione Pari Opportunità dello stesso comune, intitolato La paternità oggi, una riflessione sulla genitorialità condivisa nella logica delle politiche di genere. E quindi la domanda che ci siamo posti è: come noi padri, il nostro essere testimoni, il nostro essere educatori, possiamo contribuire a fare una sana educazione di genere? E per farlo appunto abbiamo invitato uno dei relatori dell'evento, diamo il benvenuto al professore Angelo Albero del gruppo maschile plurale di Lucca. Buongiorno Albero, benvenuto ai Padri Eterni. Buongiorno a tutti voi. E ricordiamo il gruppo maschile plurale, che cos'è? E il gruppo maschile plurale di Lucca è un gruppo di uomini, che lavorano su di sé e che fanno anche un intervento nelle scuole, in convegni appunto, e che partono dalla considerazione che se non cambiamo noi uomini non cambiano le situazioni di violenza. E in questo senso il messaggio che noi vogliamo dare è anche in questa fortunata occasione che i padri possono cambiare, non solo gli uomini violenti, ma anche i padri possono cambiare. È un messaggio rassicurante, un messaggio importante. E come Maschile Plurale Lucca noi abbiamo due momenti, come dicevo, uno di condivisione, un gruppo di condivisione, qualche donna, qualche femminista lo dice, che fate anche voi l'autocoscienza? Bah, non lo so se è autocoscienza, sicuramente parliamo di noi e parliamo di noi in una situazione protetta di intimità e affrontiamo quelli che sono i nostri problemi o quelli che riteniamo tali, ecco. Sì, ok. Matteo, hai una domanda? No, stavo pensando, no, che poi ci sono forme più esplicite di violenza e discriminazioni più sottili, no? Dicevamo in apertura che anche in questa emergenza coronavirus, alla fine della maggior parte delle famiglie, il genitore che è stato a caso, che sta a casa con i figli, a casa da scuola, sono prevalentemente le donne e le madri, in un rapporto, credo di non esagerare, 90%, 10% probabilmente, 80-20. E quindi forse spetta anche a noi, no? Come ben diceva l'ospite, liberare il tempo delle donne, cercando di essere maggiormente collaborativi, cercando di porsi questo problema, di non darlo per scontato come lo stato naturale delle cose. Sì, assolutamente. Io mi sono posto, nel prepararmi a questo convegno, mi sono posto il problema di qual era il nocciolo, qual era le possibili conclusioni. Sì. E le possibili conclusioni per me sono, cioè non ho scoperto delle cose personalmente. Tra l'altro io attingiamo molto dall'Associazione Maschile Plurale a livello nazionale, che è una rete che mette insieme gli uomini e i tanti gruppi di uomini che sono in Italia e che sono spesso sconosciuti e che lavorano su di sé per un cambiamento. E dicevo, in questo senso, un aiuto nella mia preparazione al convegno me l'ha dato anche il libro di Stefano Ciccone, Maschi in crisi, oltre la frustrazione e il rancore. Perché, dicevo, quello che Ciccone dice, che io sperimento, io sono nonno di 6 nipoti e in questo momento vedo anche i comportamenti del maschile. La fortuna in questi anni di lavoro nell'associazione di Maschile Plurale mi si è sviluppato uno spirito critico rispetto alle questioni di genere, e questo secondo me è importante. Per tornare a quello che mi ha chiesto lei, il punto centrale è l'attività di cura, che debba essere condivisa e che dobbiamo superare l'idea di complementarietà e naturalità dei ruoli, perché altrimenti se no riandiamo negli stereotipi. Noi abbiamo lavorato, anche abbiamo fatto dei progetti, degli interventi nelle scuole, e sono terribili gli stereotipi di genere che troviamo e che trasmettiamo come padri e come nonni. E quindi proprio lavorare su questo. Vuoi darci due o tre consigli pratici a noi padri in questa prendendo l'esempio di questa giornata? Poi sono consigli che devono servirci per la nostra quotidianità tutto il tempo dell'anno. Proprio tre dritte, tre attenzioni che dobbiamo avere. Ma io credo che sia importante cercare, se c'è un gruppo che lavora su questi temi vicino a dove si abita. Tanto diamo il sito, che è maschileplurale.it, per chi volesse tutte le informazioni del caso. Sì, certo. perché è importante. Noi non siamo, noi uomini non siamo, e noi padri non siamo abituati a come dire, ad avere un'intimità fra noi. Il nostro lato emotivo, non siamo abituati a svilupparlo, mentre invece è emozionale, e mentre invece è importante, e quindi costruire una consapevolezza. Ci sono, il libro che ho citato prima, secondo me per gli uomini in generale, ma c'è anche un sito, ad esempio, che io vorrei consigliare moltissimo, sì. Il Giardino dei Padri, perché il problema è la riflessione su quello che sono le buone pratiche, diciamo così. Il Giardino dei Padri è sempre maschile plurale, ci partecipa a questa rete. E può aiutare a sviluppare una con maggiore consapevolezza di quello che noi possiamo fare, siamo, e di quello che noi anche ci perdiamo con l'attività. Nella trasmissione siete stati bravissimi, avete messo in gioco proprio il tempo che abbiamo a disposizione noi uomini. Quello è il cuore, il tempo, non solo in questa situazione d'emergenza. Ringraziamo davvero il professor Angelo Albero per essere stato qua con noi. Maschileplurale.it, il sito, il Giardino dei Padri, l'altro sito che ci ha indicato. Grazie davvero Matteo, ci siamo al momento dei saluti, nelle prossime settimane saremo comunque qua, troveremo il modo, registreremo da distanza, ma insomma Padre Eterni non vi abbandonerà. Buona settimana Matteo. Buona settimana a te Fede. Ringraziamo tutta la squadra dei Padri Eterni anche per i cambi di scaletta mattutine, insomma abbiamo lavorato tutti e tanto, Danilo Di Trani e Matteo Ramelli in particolare, Carmelo Lauricella alla parte tecnica, ma un grazie a tutta la squadra di Radio 24. L'appuntamento con i Padri Eterni a domenica prossima, sempre alle 11. Ancora ciao da Federico Taddia e Matteo Bussoli.